9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Oscar Giannino, buon martedì 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice, 24 maggio per chi se lo ricorda, almeno io appartengo a una generazione che ancora cantava le canzoni del Piave, nella mia Torino c'era un misto di bandiere rosse nella scuola pubblica e di Bella Ciao fin dal primo giorno, Bella Ciao lo ricordo sempre, Bella Ciao fu la canzone con cui venimmo divisi nelle classi, e però cantavamo anche le canzoni del nazionalismo caro alla tradizione dinastica e monarchica, tra cui quella della prima guerra mondiale, quindi il 24 maggio insieme Maria Ausiliatrice, ma una data che è quella dei fanti che marciavano il 24 maggio, per chi se la ricorda. Detto questo, oggi ci occupiamo di ciò che ieri l'Istat ci ha regalato in una delle sue occasioni tradizionali, annuali, di adempimento di sua missione di istituto. L'Istat si occupa di contabilità pubblica, di rilevare dati, è un istituto centrale per ognuno di noi che ha rispetto per una cosa che si chiamano le misure quantitative. Lo ripeto sempre da questi microfoni, lo facciamo noi di Radio 24 sempre, nel dire che un paese che smarrisce la capacità, la possibilità di avere linguaggi condivisi quantitativo, matematici per descrivere i fenomeni, è un paese perduto, perché le sue classi dirigenti, come chiunque di voi in ascolto, qualunque sia il vostro titolo di studio, il mio, di tutti coloro che partecipano all'arena pubblica, se non ha la capacità di saper condividere strumenti quantitativi per descrivere i fenomeni, finisce inevitabilmente per prendere posizioni esclusivamente in base ad opinioni che sono molto legittime, ma che non hanno a che vedere con la realtà dei fatti, che parte da quantità misurate, definite e condivise come linguaggio. Quindi innanzitutto l'Istat fa parte, per questo presupposto, di uno degli istituti fondamentali per un paese serio. Questo è il giudizio personale di chi si parla, che molto spesso negli anni passati si è battuto perché migliorasse la qualità e l'autorevolezza e l'indipendenza di chi lo guida, e soprattutto perché potesse battersi per una riorganizzazione funzionale e istituzionale dei suoi processi organizzativi, perché migliori numeri, cioè più celermente trattati secondo procedure contabili e modelli statistici che sono standard a livello internazionale, ma magari anche con qualche risorsa in più, perché di questo c'è bisogno per poter elaborare dati secondo gli standard internazionali rapidi invece che secondo le tendenze lunghe del nostro paese, tutto questo non può che arricchire uno dei presupposti della nostra capacità di essere una democrazia che funziona, cioè appunto avere dei numeri che ci descrivano chi siamo, da dove veniamo, e questo lo sappiamo, ma dove stiamo andando in base a numeri condivisi. Allora, una di queste occasioni tradizionali è il grande rapporto annuale che l'Istat consegna sullo stato del paese ogni anno. Ieri c'è la fotografia sull'Italia del 2010, trovate oggi su diversi quotidiani trattamenti abbastanza diversi della fotografia che ci ha consegnato ieri l'Istat. E se posso azzardare da giornalista un'opinione, il fatto che i giornali oggi diano un peso diverso, per esempio La Stampa, ieri abbiamo avuto il direttore Mario Calabresi, decide di aprire la sua edizione di oggi sul rapporto Istat dicendo crisi pagano giovani e donne, e il direttore Mario Calabresi, che è stato nostro ospite ieri, firma un commento in prima pagina: il declino non è obbligato. E io condivido la scelta della Stampa, che ha dedicato poi pagina 2, 3, 4 e 5 ai numeri del rapporto. Trovate sul Repubblica un titolo di metà prima pagina: Istat, un italiano su quattro a rischio povertà, con un commento di Chiara Saraceno, e senza futuro, anche qui quattro pagine di dati e interpretazioni all'interno, da pagina 12 in avanti. Pagina 12 sono anche le tre pagine che il Corriere della Sera dedica ai numeri dell'Istat. Anche il Corriere della Sera sceglie il taglio di prima pagina con un titolo: giovani e donne penalizzate dalla crescita lenta, più alto il rischio povertà. E qui la scelta del Corriere della Sera è di un commento in prima pagina firmato da Dario Di Vico sulle centrocampiste del welfare, perché vedremo che i giovani, le donne, i discriminati, gli scoraggiati, insomma un po' le vittime numero uno della crisi, da cui siamo ben lungi dall'essere usciti in termini di produzione industriale e di recupero del reddito disponibile delle famiglie, che è arretrato, il reddito disponibile a prendere potere d'acquisto è tornato a 1999. nel nostro paese, e sono proprio appunto i giovani e le donne. E i numeri che l'Istat ci fornisce sono i numeri che ci consentono di riflettere. Dice Mario Calabresi oggi nel suo commento, io la faccio breve perché poi vi presento l'ospite e faccio parlare lui dei numeri. Dice Mario Calabresi in un commento che io condivido moltissimo e che spiega un pochino perché altri quotidiani secondo me hanno dato minor rilievo a queste cose. Dice Mario Calabresi, agli italiani il rapporto annuale dell'Istat presentato ieri non dice assolutamente niente di nuovo, a loro non serve. Perché racconta cose che già sanno, che sentono sulla loro pelle ogni giorno, la paura di scivolare nella povertà, il calo del potere d'acquisto, la minore capacità di risparmiare, il gonfiarsi del numero dei giovani che non trovano lavoro e passano le loro giornate tra il divano della casa e dei genitori, il computer e l'aperitivo in piazza. Il rapporto dell'Istat, prosegue il direttore della stampa, poi la pianto, sarebbe invece utilissimo, sue parole, per la nostra classe di governo, convinta che i problemi del nostro futuro si chiamino spostamento di un paio di ministeri al nord o sanatoria delle multe automobilistiche. Per tutti i nostri politici dovrebbe essere una lettura obbligatoria per aprire loro gli occhi, per scuoterli, per indicargli le priorità e le ragioni di allarme. Io vi devo dire che ieri, in un giro che ho fatto telefonico di membri del governo che conosco, in effetti prevaleva una... insomma, una opinione su queste cifre dell'Istat in cui, come sempre, il politico dice: ma perché tutto questo pessimismo? Perché questa volontà di buttarci giù? Eccetera, eccetera. I dati sono i dati, rispettiamo i dati per quello che sono, non tiriamo la giacchetta a chi fa i dati. Quindi il mio consiglio a chi è in ascolto è di ricordarsi che l'Istat non fa politica, non è questo il suo compito, è lungi dalle intenzioni di chi lo guida, di chi elabora i dati, fare politica. Poi ciascuno li interpreta come vuole, ma intanto i dati dicono delle cose. Siamo indietro rispetto al pre-crisi di produzione industriale a doppia cifra, siamo sul reddito disponibile al 99 e ci sono altri paesi nel mondo che fanno molto meglio. Questo è il punto. Allora, chi è l'ospite di oggi? È il presidente dell'istituto, il professor Enrico Giovannini, che ha deciso da qualche anno di mettere a frutto, proprio per migliorare il suo l'istituto che è un presupposto della nostra democrazia, con la sua professionalità e la competenza che aveva anche approfondito e portato all'estero. Uno di quegli italiani che va all'estero e poi torna, per nostra fortuna. Grazie e buongiorno al presidente Giovannini. Allora, cominciamo con alcune cose spot, per così dire, per consentire a lei di approfondire. Una delle cifre su cui i giornali indulgono di più è quella degli scoraggiati della crisi. Vogliamo definire chi sono gli scoraggiati in termini tecnici, cioè chi sono gli scoraggiati, coloro che non sono disoccupati, non sono, chi sono gli scoraggiati? In primo luogo bisogna capire come misuriamo i disoccupati. I disoccupati sono coloro i quali non hanno un lavoro ma lo cercano attivamente, attraverso colloqui, attraverso l'invio di domande, insomma in qualche modo si danno da fare per cercare un posto di lavoro, non lo trovano e per questo sono classificati tra i disoccupati. Ma ci sono persone che, appunto, scoraggiate dalla situazione complessiva dell'economia, decidono di rinviare le azioni di ricerca e quindi non si mettono attivamente a cercare lavoro. Questi sono gli scoraggiati. Ora, ci sono due categorie possibili di scoraggiati: quelli che, se la situazione migliorasse anche leggermente, sarebbero disposti a lavorare, e quelli che invece rinviano sine die in qualche modo il rientro sul mercato del lavoro. La zona grigia, che riunisce appunto coloro i quali non stanno cercando ma che invece sarebbero pronti a lavorare se trovassero un lavoro, si è allargata particolarmente con la crisi e quindi sono in panchina, però pronti eventualmente a rientrare in campo se la situazione economica migliorasse. E c'è questa cifra che fa particolarmente riflettere, di questi 2 milioni e 100 mila ragazzi, insomma giovani, perché poi c'è qualche dilemma a usare la categoria ragazzi su chi ha 29 anni, che in particolare non cercano lavoro, non studiano, non fanno nulla. Sì, questo è un dato che abbiamo utilizzato già l'anno scorso, i cosiddetti NEET, e devo dire che è qualcosa che ha colpito molto l'immaginario collettivo tutto l'anno scorso, e noi siamo abbastanza fieri di questo. L'Italia ha discusso sui giovani come forse non mai. Questi sono coloro i quali, appunto, come lei ha detto, non studiano, non lavorano, non sono in training e quindi sono non solo in panchina, ma sono un po' distesi sulla panchina. E il problema è proprio questo: come abbiamo mostrato quest'anno, chi è stato in questa situazione nel 2010 lo è stato anche in gran parte nel 2009 e nel 2008. Questo vuol dire che questa è una condizione di emarginazione sociale in qualche modo persistente, e è una pessima notizia, perché se ci fosse in qualche modo un ricambio allora la cosa sarebbe meno grave. Invece il fatto che abbiamo così tanti giovani in qualche modo emarginati dal meccanismo di lavoro, istruzione, è in qualche modo un peso per il futuro, perché rischiamo di perdere l'investimento in istruzione che abbiamo fatto e soprattutto rischiamo di avere una generazione un po' depressa. Ora, prima di arrivare alle donne, affrontiamo uno dei punti classici su cui i politici, tendenzialmente se hanno responsabilità di maggioranza o di governo, sono più reattivi di fronte ai dati della ricchezza del paese, e cioè la povertà. Come si misura la povertà? Il fatto che si tende a dire c'è un quarto del paese che si sente povero e povero. Allora, innanzitutto chiariamo quali sono gli standard attraverso i quali si misura e si definisce la povertà relativa, assoluta, in che termini nel nostro paese, primo. Secondo, quando si dice un quarto delle famiglie è a rischio povertà, come molti titoli o molti sommari oggi sintetizzano la fotografia che avete dato ieri delle situazioni delle famiglie italiane nel 2010, come questo dato che i politici contestano si può coniugare con il fatto che poi nell'ambito del G20, per esempio, siamo il paese in cui lo stock di ricchezza delle famiglie è il secondo praticamente dopo quello dell'Australia, ma dove ben il 55% degli adulti italiani ha uno stock accumulato a vario titolo superiore ai $100,000 a testa, che insomma non è poco. Allora, come si misura la povertà? Qual è il dato 2010 sui precedenti? E come si coniuga questo con l'elevata patrimonializzazione, che invece i politici sbandierano molto come una dei grandi asset del paese, come anzi dei presupposti della garanzia della solvibilità del suo stesso debito pubblico, anche se il debito pubblico dovrebbe essere garantito da asset pubblici e non dai soldi delle famiglie. Dica. La povertà in senso stretto si misura o in termini assoluti, cioè guardando al livello di consumi, di reddito delle famiglie, e non solo alla possibilità di accedere a certi servizi in qualche modo considerati necessari per la vita di oggi. Accanto a questo abbiamo l'indicatore di povertà relativa, che si misura sulla capacità di consumare per una famiglia, ad esempio, di 4 persone rispetto agli standard del resto delle famiglie italiane. Quindi uno è l'indicatore di povertà assoluta, l'altro è l'indicatore di povertà relativa, e sono tutte definizioni che vengono definite appunto a livello europeo, quindi noi non inventiamo nulla da questo punto di vista. Ma c'è un altro dato, che è quello che poi ha colpito del nostro rapporto di ieri, ed è il cosiddetto indicatore di rischio di povertà o esclusione sociale, che è quello che è stato definito a livello europeo come obiettivo per il 2020, con l'idea di tirar fuori dalla povertà appunto così definita, dall'esclusione così definita, oltre 20 milioni di persone in 9 anni. In Italia questo indicatore appunto di rischio di povertà e esclusione è in qualche modo leggermente più alto di quello europeo, e parliamo di circa 15 milioni di persone, ed è questo che ha colpito appunto l'immaginario. Quindi perché oggi molti dicono c'è il 24,7% a rischio di esclusione sociale della popolazione, rispetto al 20% della Germania, al 18,4% della Francia, e di questo nostro 24,7% della popolazione ben il 57% sta nel sud. Però sia pur con questo riferimento a un criterio standard europeo, in che cosa consiste il rischio di povertà o di esclusione sociale, per essere concreti e far capire a chi è a casa? Vuol dire, ad esempio, il rischio di non pagare le bollette delle utenze, vuol dire il rischio di non pagare l'affitto, vuol dire l'impossibilità di fronteggiare una spesa improvvisa di 800 euro nel caso si verificasse e così via. Sono anche in questo caso degli indicatori definiti a livello europeo che mostrano coloro i quali sono con l'acqua proprio vicino alla bocca, cioè se accade un evento imprevisto rischiano di andare sotto. Ora, tornando alla sua domanda, ma com'è possibile coniugare questa situazione con la situazione di un paese che ha accumulato uno stock di ricchezza così forte? L'Italia è uno dei paesi con un rapporto ricchezza-reddito più alti al mondo. Beh, in primo luogo molta di questa ricchezza è investita in abitazioni e i mattoni non si comprano, non si mangiano. In questo senso è vero che abbiamo questo stock di ricchezza, ma non è immediatamente mobilizzabile. Se tutti cominciassimo a vendere casa, i prezzi crollerebbero e evidentemente la stessa ricchezza diminuirebbe. Inoltre c'è una distribuzione di questa ricchezza non particolarmente equa e quindi abbiamo delle fasce di popolazione, quelle più povere in senso di reddito, ma anche quelle che hanno accumulato di meno in senso di ricchezza, che si trovano in questa condizione di rischio di povertà o esclusione sociale. Aspetti, su questo punto, che è un altro dei temi molto divisivi su cui di solito nei dibattiti televisivi i politici si dividono in due, e che a casa e non ha strumenti di elaborazione e non ha la curiosità di all'accesso diretto ai dati, non riesce mai a capire come stanno le cose e tendenzialmente si conferma in un'opinione pregiudiziale, cioè quello del distribuzione del patrimonio e dei redditi nel nostro paese rispetto agli altri paesi avanzati. Anche qui l'obiezione è quella di dire: però noi abbiamo una ricchezza mediana, non la media. Io lo dico a chi è a casa, abbiamo sempre chiaro la differenza tra media e mediana? Ecco, spero di sì, cioè se tra 10 persone uno ha 199 euro e 9 ne hanno uno, voi capite che la media sono, poiché è 200 la somma e sono 10, sono 20 euro a testa. La mediana è invece la posizione a metà di una serie ordinale, quindi la mediana, se una persona ha 199 euro e 9 ne hanno uno, è 1,000, quindi la mediana ci dà l'idea vera, più meno approssimativa, meno con la media dei polli di Renzo, di come c'è una distribuzione all'interno di un universo chiuso di soggetti. Ecco, l'obiezione che si fa a quello che lei ha appena detto, professor Giovannini, è: nel nostro paese però abbiamo un stock di ricchezza mediana che è più elevato all'interno dei G20. Questo testimonia che c'è una minor differenziazione nella distribuzione della ricchezza. Dall'altra parte si dice: è vero che in questi anni si sta accentuando una differenziazione nella distribuzione del reddito disponibile, non della ricchezza, ma come coefficiente di Gini, che è uno dei classici indicatori con cui si misura la dispersione dei redditi nei diversi decili dei percettori, nella realtà moltissimi grandi paesi dell'Europa continentale eccetera stanno peggio di noi, quindi la nostra distribuzione sia del reddito che del patrimonio è assai meno, tra virgolette, ingiusta che altrove. È vero o non è vero? Chi formula questa obiezione ha ragione o mente? È assolutamente corretto, i dati indicano esattamente queste tendenze. Il problema è cosa succede nel lato, diciamo, più debole della popolazione. Vede, l'anno scorso, quando abbiamo guardato i dati del 2009 sugli indici cosiddetti di deprivazione, cioè quegli indici di cui ho parlato prima, l'impossibilità di pagare le bollette, di pagare il mutuo e così via, abbiamo visto una stabilità rispetto al 2008. E questa cosa ci ha molto sorpreso perché, come tutti, immaginavamo che peggiorasse, la crisi dovesse peggiorare. A quel punto abbiamo fatto un'analisi molto più dettagliata di questo fenomeno e abbiamo visto le seguenti cose. Primo, la caduta dell'occupazione ha colpito soprattutto i giovani che vivono in famiglia e che quindi apportano al reddito della famiglia una componente minore di quello che fanno i genitori, il cui lavoro attraverso la cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali è stato in gran parte difeso. Secondo elemento, la crisi ha colpito soprattutto famiglie che erano già in condizione di deprivazione in precedenza e quindi in qualche modo non ha spostato la media, ma ha colpito di più coloro i quali erano già in difficoltà. Nel 2010 invece si è visto che l'unico elemento di variazione è stato che la crisi ha colpito anche alcuni di coloro i quali avevano un lavoro standard, e quindi in questo caso è stato il capofamiglia a perdere il lavoro, e questo in molti casi ha spinto immediatamente la famiglia a rischio di povertà e esclusione. Quindi al di là delle medie e delle mediane, questa crisi finora, e per fortuna stiamo uscendo appunto dalla recessione, siamo usciti dalla recessione anzi, ha colpito purtroppo le fasce più deboli e quindi ha influenzato poco le medie, ma ha colpito appunto persone che erano già in difficoltà. E tra l'altro ha intaccato questa crisi anche uno dei tradizionali punti di forza, ancora una volta, delle famiglie e della solidità, quindi del circuito finanziario privato italiano, perché la propensione al risparmio è molto scesa. Nel 2010 il dato che è fotografato nella vostra relazione annuale è del 9,1% di propensione al risparmio sul reddito disponibile, quando nel 2000-2005 era superiore al 13%, quindi è un calo molto significativo. Esattamente, questo è proprio uno degli indicatori della difficoltà delle famiglie a far quadrare il bilancio, anzi rispetto agli altri paesi europei che hanno anch'essi avuto una recessione molto forte, in altri paesi la propensione al risparmio è cresciuta come una risposta razionale, direbbero gli economisti, ai momenti di difficoltà, cioè in un momento di difficoltà io contraggo i consumi, cerco di risparmiare di più in maniera tale da immunizzarmi in qualche modo dal rischio crescente che io possa perdere il lavoro e così via. Ecco, professor Gianni, io su questo, l'obiezione del politico che si vuole difendere, dice no, non è come dice il professor Giannini, nella realtà è che gli altri paesi, quelli che hanno nella crisi aumentato la propensione al risparmio, erano i paesi che consumavano a eccesso di debito e adesso devono per forza innalzare la propensione al risparmio perché devono fronteggiare il rischio di default di debiti privati, bancari, di esposizione dei mutui, eccetera, classicamente gli Stati Uniti, i paesi anglosassoni. Noi che invece siamo stati più prudenti, più cicale e non abbiamo avuto bolle e quindi non abbiamo un eccesso di consumo finanziato a debito o di attivi i cui valori nei libri delle banche, le società eccetera vanno riallineati e quindi drenando risparmio sotto forma di denaro del contribuente messo nelle banche e così via, non siamo obbligati a dire alla gente adesso risparmiate di più. Anzi, questo forse spiegherebbe perché la gente nelle restrizioni di un prodotto che comunque ha perso 7 punti e che stenta a riprendere malgrado che la recessione sia finita, in questo la gente dice consuma un pochino di più del proprio reddito e forse non è sbagliato. Questa obiezione del politico è giusta o è da respingere? Esattamente corretta, per gli Stati Uniti in particolare. Il tasso di risparmio per le famiglie statunitensi era addirittura negativo, cioè spendevano più di quello che avevano in realtà come reddito. In Europa la situazione è un po' diversa, cioè il fatto che noi siamo scesi a un tasso di risparmio inferiore a quello di tutti gli altri paesi europei è un segnale preoccupante, perché negli altri paesi europei non è che c'è stato il rimbalzo fortissimo come quello degli Stati Uniti di cui lei parlava, ma anche lì c'è stato in qualche modo un tentativo di difendersi da un'incertezza maggiore. Ora il punto chiave è che sempre dalle nostre rilevazioni emerge che il numero di famiglie che si stanno indebitando o che devono far in qualche modo conto sul patrimonio accumulato precedentemente sta crescendo. Quindi questo è un segnale positivo per l'economia, il fatto che i consumi non siano crollati come in altri paesi, ma che invece sostengano in qualche modo la crescita. Dall'altro segnala uno stress crescente sulle famiglie. Sulle famiglie. Ora abbiamo la pubblicità e poi torniamo con l'altra grande categoria delle vittime, oltre ai giovani, le donne discriminate. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, il nostro ospite, il presidente dell'ISTAT, il professor Enrico Giovannini. Riprendiamo da un'altra delle grandi categorie vittime della crisi, le donne, descritte nei tanti dati che vengono riferiti dall'ISTAT sulla condizione femminile come un pilastro delle reti di assistenza e cura della nostra società. Eppure c'è un numero che fa molto riflettere, 800.000 donne discriminate, cioè espulse dal lavoro per avere un figlio, che testimoniano la condizione ancora di impossibilità molto elevata nel nostro sistema di poter far convivere cura parentale e partecipazione al mercato del lavoro. Noi siamo bassissimi rispetto agli altri grandi paesi europei come partecipazione del componente femminile, oltre che giovanile, al mercato del lavoro. E altro dato su cui riflettere: continua a essere a doppia cifra, intorno al 20%, la distanza per età di qualifica delle retribuzioni tra uomo e donna. So che molti dei nostri ascoltatori insorgeranno dicendo: non è vero, le donne sono avvantaggiate. Questi sono i numeri dell'Istat. Allora, professor Giovannini, le donne vittime? Beh, vittima non da oggi, perché le 800.000 persone, donne, che appunto sono state discriminate sul posto di lavoro nel momento in cui hanno avuto una gravidanza, non è che sono un numero di oggi, sono l'ammontare di donne che nel corso della loro vita hanno avuto questo tipo di situazione. Ora, una buona notizia nel rapporto c'è, che nel caso di matrimonio o altri eventi familiari le nuove generazioni sono meno discriminate rispetto alle precedenti generazioni, mentre invece per ciò che riguarda la maternità le differenze non ci sono. L'altro elemento di rischio per le donne è che le donne svolgono all'interno della famiglia un ruolo molto importante nel lavoro di cura degli anziani, dei bambini e così via. E abbiamo messo in luce come purtroppo, anzi per fortuna, la speranza di vita aumenta e quindi gli anziani vivono molto più a lungo, e quindi purtroppo le donne sono schiacciate dalla cura dei bambini da un lato, la cura degli anziani dall'altro, per un periodo di tempo molto più lungo della loro vita. In questo senso segnaliamo degli elementi di rischio appunto di tenuta di questo welfare familiare, soprattutto perché i comuni, in qualche modo spinti giustamente anche a contrarre le loro spese complessive per il contenimento della finanza pubblica, potrebbero essere tentate di ridurre l'impiego di queste risorse per attività socio-assistenziali, e quindi questo potrebbe indebolire il welfare complessivo. Nel 2009, a fronte di una riduzione delle spese dei comuni complessiva, si nota per fortuna una riallocazione a favore delle attività assistenziali, cioè i comuni hanno tagliato le spese generali per aumentare le attività socio-assistenziali, e speriamo che questo continui anche in futuro. Oh, un altro dei punti su cui a casa, in televisione e in radio, a volte chi non ha i numeri sulla punta delle dita non capisce. L'Italia spende rispetto agli altri paesi avanzati, soprattutto quelli di modello più analogo al nostro, quelli dell'Europa continentale, non tanto quelli anglosassoni che hanno un diverso sistema, una diversa storia, meno welfare, meno Stato e anche un diverso ordinamento giuridico, ma rispetto agli altri grandi paesi europei spende come in misura analoga per la tutela, la protezione sociale e i denari della sua spesa pubblica e del contribuente, spende di più, spende di meno. Voi date un dato tra i tantissimi nel vostro rapporto di ieri, dite che per la protezione sociale l'Italia impegna il 27,8% del PIL, e è un dato che è superiore alla media dell'Unione Europea, che è il 26,4%, mentre quello italiano è il 27,8%. Però poi dite: stiamo attenti che se analizziamo su questo 27,8% di PIL che viene impegnato per la protezione sociale le diverse voci in cui si ripartisce, ecco che scopriamo quali sono i punti deboli del welfare, della protezione sociale italiana. È così? Esattamente, ad esempio per la famiglia l'Italia spende il 4,7% a fronte di una media europea dell'8,3%, per la disoccupazione 1,9% rispetto al 5,2% medio. E dov'è che invece spendiamo di più? Per la spesa pensionistica. Abbiamo fatto varie riforme come Italia che hanno indubbiamente messo in sicurezza i conti della Previdenza, e questo è stato un passaggio epocale che altri paesi devono ancora fare o stanno facendo con grandi tensioni, fermo restando però che dobbiamo curare, come ho detto un attimo fa, anche la condizione degli anziani. Visti i limiti complessivi di spesa pubblica, purtroppo stiamo dedicando molto di meno alle attività appunto della famiglia, e in particolare quelle socioassistenziali. Tenete presente voi in ascolto che i paesi che si trovano, la Germania classicamente, ne abbiamo parlato mille volte, al minimo della disoccupazione alla sua unità, è perché negli anni 2000, oltre a fare una grande scelta per la parte privata, cioè contratti aziendali di produttività o deroghe rispetto a quelli nazionali, in cui aziende e sindacati hanno messo insieme una posta condivisa su più produttività per più salario aggiuntivo o difesa al posto di delocalizzazione del lavoro che c'era, ma dall'altra parte hanno anche molto cambiato il welfare. E quindi nella discrimine per cui noi impieghiamo meno risorse, per esempio per la tutela della disoccupazione, oltre che per il sostegno alle famiglie, noi paghiamo il fatto che abbiamo un mercato lavoro rigido che finisce poi per far gravare il più dei costi, le rigidità, e quindi quando le cose vanno male l'espulsione, esattamente sui giovani e le donne, la famosa generazione perduta di cui poi tutti si riempiono la bocca, tranne il fatto però che quando si tratta di rilevare l'eccesso di risorse ancora comunemente assorbito dalle pensioni, tutti reagiscono dicendo non si può toccare questa roba, e tranne il fatto che nel rilevare che bisogna andare verso un welfare che impieghi più risorse, non meno, che da qualche altra parte però bisogna recuperare, ma che servano a tutelare il lavoratore nelle sue condizioni di debolezza quando perde il lavoro e non il suo posto di lavoro dov'era e com'era, come funzionava il nostro attuale sistema delle casse integrazioni, anche lì tutti insorgono perché dicono no, perché se noi accettiamo l'idea che possano chiudere gli stabilimenti sulla scommessa che se ne apro degli altri, ma chi volete raccontarla? Però l'esperienza degli altri paesi è quella che spendono più risorse su un totale che non è detto che sia più elevato del nostro per la disoccupazione, il sostegno al reddito quando manca al lavoratore, cosa diversa dal sostegno all'organizzazione del lavoro com'è, perché questa è residuo di un vecchio tempo che però spiega com'è, perché noi spendiamo su questo meno degli altri e quindi con risultati peggiori degli altri. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio per questa parte finale della trasmissione di oggi, martedì 24 maggio, con noi il presidente dell'Istat Enrico Giovannini sulla relazione annuale Istat sulla condizione del paese. Due ascoltatori con due punti che non abbiamo ancora toccato. Il primo, Osvaldo, ci chiama da Vicenza. Prego Osvaldo. Sì, salve, buongiorno. Dica pure. Scusi, sono un po'... c'è un po' di rumore, però, no, ma quale emozione? Venga al punto, non si preoccupi. Volevo portare un esempio. Io lavoro e mia moglie anche. Sì. Abbiamo una persona anziana a casa, la mamma di mia moglie, che non è più autosufficiente. Metterla in un ricovero ci costa 2.000 euro al mese e non ce ne sono, bisogna aspettare minimo un anno e mezzo. Abbiamo preso una badante che ci costa comunque dai 15 ai 17 mila euro all'anno. Mia suocera prende 500 euro al mese. Cioè, le famiglie si impoveriscono anche per questo motivo qua, insomma, perché io cosa faccio? Lascio mia suocera da sola. È chiaro che gli si dà una mano, no? Per cui chiarissimo. Ecco, Osvaldo pone il problema, oltre a quello dei giovani e delle donne, degli anziani, e in effetti anche sugli anziani c'è un numero che fa abbastanza riflettere nel rapporto dell'Istat, vero professor Giovannini? Gli anziani con problemi di reddito, di disabilità eccetera sono 2 milioni rotti? Esattamente, e purtroppo non hanno sufficiente assistenza, ed è per questo, tornando al discorso che facevamo prima, sono le famiglie di origine che in qualche modo si fanno carico di questi impegni, che però devono anche farsi carico dei bambini. Il numero degli asili nido è insufficiente e quindi molte famiglie sono obbligate a mandare i bambini ad esempio ad asili nido privati. Insomma, alla fine è tutta la catena intergenerazionale, come si suol dire, che è sotto stress, e il rischio è che questo disagio che le famiglie sentano sfoci appunto in un senso di totale insoddisfazione anche al di là poi della condizione economica di questo o di quell'altro. Allora, Franco da Modena invece ci chiama per un altro punto che diciamo è un'obiezione classica ai numeri della disoccupazione. Prego Franco, se ho capito bene dalla righetta in cui mi segnalano la sua chiamata. Prego Franco. Buongiorno dottore, lavoro nell'edilizia da circa 40 anni, attualmente una decina di cantieri. Io ho constatato che circa l'80%, li conosco personalmente gli addetti ai lavori, sono stranieri. Qua c'è qualcosa che tocca. Spiegatevi voi questo fatto, questa disoccupazione, da dove viene? Nel non voler fare? Benissimo, questa è una classica obiezione che dice in realtà in vastissima area del paese, in tutto il nord, non c'è neanche la disoccupazione professionale, non c'è più. Quindi come si spiega con i numeri che dicono che i disoccupati veri e propri sono 2,1 milioni, ci dice ieri l'Istat. Poi bisognerebbe aggiungere il 1,5 milioni di chi desidera un lavoro ma non lo cerca perché è scoraggiato, un altro 500.000 che attende l'esito di ricerche precedenti, e quindi siamo quasi al 15% del totale della popolazione in età da lavoro, sommando queste tre categorie. L'Istat non fa questa somma, quindi io non gli sto attribuendo. Però molti dicono, come Franco da Modena, ma dove sta questa disoccupazione? Non è che state un po' gonfiando le cifre? Professor Giovannini, come si risponde? No, non stiamo gonfiando le cifre, e direi che il problema che pone l'ascoltatore è corretto. Ci sono alcuni lavori in cui è difficile trovare manodopera disponibile, in particolare italiana, che ci sono invece altre aree, altri tipi di attività in cui l'eccesso di offerta di lavoro è molto forte. Noi abbiamo fatto vedere che ad esempio anche durante la crisi l'occupazione straniera è aumentata mentre è calata quella italiana, perché sono aumentate le posizioni professionali meno qualificate. Ad esempio adesso nella fase di ripresa economica sta crescendo l'occupazione nel terziario, ma sono soprattutto nei ristoranti, negli alberghi o nei servizi alle famiglie, come le badanti di cui parlavamo prima, e sono attività che spesso vengono coperte dagli stranieri e non dagli italiani. Un altro punto: continua, secondo la vostra fotografia annuale, la tendenza al calo delle iscrizioni nelle università italiane, fenomeno sul quale ci si divide anch'esso. Molti dicono l'effetto dell'illusione dell'apertura generale degli accessi all'università finalmente è finito, si è toccato con mano che è un'illusione, perché tanto il titolo di studio aperto a tutti ed è qualificato, sia pur con valore legale, non apre affatto in maniera proporzionale l'accesso rapido a un reddito disponibile a tempo determinato, eccetera, ma comunque congruo, e quindi si screma finalmente dopo lunghi decenni l'effetto invece dell'esplosione delle iscrizioni. Altri dicono, il direttore della stampa ieri a questi microfoni, no, attenti, il calo delle iscrizioni è indicatore di un discostarsi dell'Italia da una lezione che deve rimanere invece sempre sotto i nostri occhi, perché la formazione del capitale umano è uno dei presupposti, la formazione del capitale sociale insieme alla formazione del capitale sociale, dei requisiti, dei prerequisiti della crescita, quindi è un pessimo dato. Lei come interpreta questo dato della conferma del calo della tendenza delle iscrizioni? In parte è legato anche alla crisi complessiva, alcune famiglie magari hanno delle ristrettezze economiche maggiori e quindi le rette universitarie sono comunque un costo. Dall'altro esiste però un fenomeno strutturale molto più complesso. Abbiamo mostrato come nel 2007 le imprese, ricordo che il 2007 era un momento di boom dell'industria italiana e non solo, le imprese stessero cercando lavoratori con una formazione tecnico-professionale senza trovarli. Se uno avesse creduto semplicemente alle dichiarazioni delle imprese, avrebbe trovato che c'erano circa 120.000 occupati insoddisfatti, diciamo così, perché non c'erano le professionalità adatte. Dall'altro lato le imprese dicono anche che in ogni caso è necessario riformare gli studenti che arrivano anche dalle scuole professionali, perché la scuola non dà necessariamente la formazione necessaria. Ora, come vedete è un quadro molto variegato, è giusto ed è opportuno, tra l'altro è uno degli impegni presi dall'Italia per la strategia Europa 2020, aumentare il tasso di laureati nel paese. Dall'altro dobbiamo anche riconoscere che le imprese chiedono spesso laureati per fargli fare poi dei lavori da impiegati, e quindi c'è un problema di sottoutilizzazione del capitale umano piuttosto rilevante. Il sistema Italia pare vulnerabile, lei ha detto ieri nel presentare di fronte al Capo dello Stato la relazione annuale. abbiamo eroso molte delle nostre riserve in questi anni, il tasso di crescita è molto insoddisfacente. Ecco i tre giudizi che fanno sobbalzare i politici, eppure sono giudizi, mi pare, fondati alla luce di queste cifre. Non le chiedo di tornarci sopra, le chiedo semplicemente di dirci che cosa l'Istat, per migliorare ancora i dati che fornisce alla comunità degli studiosi, ma a tutti gli italiani, agli operatori economici e alle classi dirigenti, che cosa in quest'anno riuscirete a fare per migliorare ancora i vostri processi? Cosa ci dobbiamo aspettare in questo 2011? Verso la fine del 2011 cominceremo a pubblicare i dati sul fatturato trimestrale dei servizi di settori che ancora non sono coperti dalle nostre rilevazioni. Ormai gran parte dell'attività si svolge nel terziario e quindi dobbiamo aumentare la capacità di monitorare in tempo reale questo settore. Dall'altro lato avremo delle misure più precise dei prezzi all'importazione, e questo ci aiuterà a migliorare le valutazioni dell'inflazione in generale e anche della misura del prodotto interno lordo a prezzi costanti, che è poi una misura chiave evidentemente per capire se il paese migliora o peggiora. O peggiora nero a fronte comparati. Bene, io ringrazio molto per il suo impegno, che non è questo oggi ai nostri microfoni, ma è quello quotidiano, il professor Giovannini e tutti coloro, ricercatori e dipendenti dell'Istat. Ultimo appello, politica, apri le orecchie, perché sennò gli italiani te le aprono nelle urne, non le orecchie, ma qualcos'altro. Le cifre bisogna saperle ascoltare. Chi non sa ascoltare le cifre, delle due l'una: o è un somaro e non fa parte della classe dirigente, ma è meglio che riprenda a studiare se ha tempo di recuperare, oppure è in malafede. E i politici in malafede non sono classe dirigente, sono i primi responsabili dei declini dei paesi, che esistono nei fatti, per quanto possano non piacere e quindi vengano negati da chi dice che i fatti, cioè i numeri, non esistono. Questo vale per il centro, per la destra, per la sinistra. Comunque la pensiate anche per voi in ascolto. Spero, viva i numeri e la loro arida ma inesorabile logica. A domani, Linea Generale Radio. 9 in punto.